Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti a Notiziario Anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2024, info@siciliaribertaria.it. Iniziamo dal periodico anarchico libertario ticinese, Voce Libertaria, settembre-dicembre 2023, in cui si racconta in un articolo Plinio Martini e il prete, questo essere veramente nefando, che approfittò del funerale del padre di questo compagno per dargli addosso in ogni maniera. L'articolo è lungo, adesso non sto a leggervelo. Comunque l'offesa è stata pubblica e il compagno, vittima della diffamazione, si è molto arrabbiato e ha scritto un memorandum per i posteri. Parliamo comunque di cose vecchie degli anni 50. Ancora più indietro, il parroco di Turro, quartiere a nord di Milano, è citato addirittura dalla Treccani, era uno spione degli austriaci. Il primo allarme alla polizia austriaca fu dato dal parroco di Turro. Da Fatto Quotidiano del 4 dicembre, Casta Vaticana, burghe senza più casa di ben 400 metri quadri, è il cardinale che paragonò Papa Francesco all'anticristo. Passiamo poi alla rivista Giallo del 6 dicembre. Tre orchi frequentavano il convento di Cesena, dove fu uccisa una povera ragazza di cui non si è più saputo il destino del corpo. E diciamo che insomma la madre, è ormai giunta quasi agli 80 anni, continua ad accusare i frati. Fatto Quotidiano del 1 dicembre, il famoso Berlusconi filocrocifissi era anche un ladro di orologi. L'orologio Luigi XVI rubato. Berlusconi non ha lasciato solo croste. Quindi continuano le accuse contro questo esponente clericale. Fatto Quotidiano del 29 novembre. Nella stanza di La Barbera c'era la borsa di Borsellino. Da appunto continua il giornale, questo giornale, a ricostruire aspetti sconosciuti, i famosi depistaggi, che furono sempre sostenuti e autorizzati dai ministri dell'interno democristiani. Passiamo alla Repubblica del 29 novembre, la condanna di Verdini, il banchiere in bancarotta che sussurrava ai potenti. Fu coordinatore di Forza Italia e quindi leader dei filocrocifissi. Poi andiamo avanti, un'intervista del famoso anticlericale Parisi, premio Nobel della fisica, Giulia uccisa come Ipazia, tutte e due vittime del patriarcato. Pagina 19 della Repubblica, appunto, come dicevo prima. Allora, cosa dice il premio Nobel? Con Ipazia siamo nella fase di passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Il sapore antico e le biblioteche stanno per scomparire. Già i romani avevano ereditato le tecnologie dei greci senza più capirne il pensiero. Ci sono, sì, similitudini con l'oggi. Anche noi a volte ci affidiamo alla tecnologia, già dimenticando la scienza, eccetera. Di questo passo, trascurando ad esempio l'insegnamento della scienza a scuola, come vuole chiaramente il papato, la chiesa, che sono nemici della scienza, finiremo su un sentiero pericoloso. Quindi ricordiamo appunto la famosa filosofa Ipazia uccisa dai preti ad Alessandria d'Egitto nel 415 d.C. Ma la fede del Vaticano al COP28 per il clima, conferenza dei paesi che hanno firmato la convenzione, ma in realtà in Vaticano continuano a entrare tranquillamente decine e decine di macchine tutti i giorni, quando potrebbe benissimo vietarne l'ingresso e autorizzare l'ingresso solo a quelle elettriche, ai cicli, eccetera, eccetera, contribuendo alla lotta all'inquinamento. Da Il Giorno, quotidiano nazionale del 29 novembre, Il suicidio assistito in Svizzera, lettera di una professoressa. Stop alle cure, basta soffrire. Docente universitaria e traduttrice, Margherita Botto, era affetta da un tumore al terzo stadio. Il testamento in un messaggio. Non ho speranza di guarire e il fratello si autodenuncia. E si riportano i casi Sibilla Barbieri, 58 anni, eccetera. E c'è la foto di Marco Cappato. Andiamo avanti, è uscita la rivista Nessun Dogma, organo bimestrale dell'UAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Nazionalisti. Si batte sempre sul problema dell'8 per 1000 con una copertina in espresso, c'è un caffè, sempre per protestare con questo abuso colossale dei preti che si appropriano di grandi cifre di denaro. L'8 per 1000 tossico del governo Meloni. Il Consiglio dei Ministri mette le mani sulle scelte per lo Stato, ovviamente non in modo laico. Il governo Meloni non ha intenzione di incentivare i contribuenti a scegliere lo Stato. 8 per 1000 continua il calo delle firme per la Chiesa Cattolica, molto bene. Poi abbiamo nella rubrica Osservatorio Laico varie notizie positive per noi che provengono da vari paesi del mondo. Tornando all'8 per 1000, c'è da dire che è stato pubblicato appunto su Nessun Dogma, l'organo dell'UAR, le serie storiche delle firme dall'89 al 2021, un clamoroso crollo di firme in favore della Chiesa c'è stato, a firma di Federico Tulli. Quindi noi continuiamo la nostra battaglia anticlericale, fiduciosi nella lotta finale contro il clero. Abbiamo poi su Sicilia Libertaria, da Ragusa, di novembre 2023, al di qua, la culla dei monoteismi e guerre, il sinodo e il provolo, che è il famoso istituto dove venivano violentati i sordomuti. Attenzione, attenzione, la 16ª Assemblea Generale della Sinodalità, dopo 4 settimane di lavoro, ha sfornato un documento conclusivo molto ambiguo e tortuoso, e su cui lo scrittore fra dubbioso ci ricama sopra. Per restare in tema di abusi, altre notizie: 20 sacerdoti e chierici denunciati lì, 15 allievi vittime là, insomma la Chiesa continua nei suoi crimini dei preti pedofili. C'è anche una foto del mio calendario anticlericale. Vernacoliere, dicembre 23, segnalo solo la copertina con una bella vignetta sulla Madonna. Dio vuole dare le dimissioni, non ce la fa aspettare la pensione, troppi disastri. E io allora, dice la Madonna, mi hanno levato anche l'opzione Madonna. Allora, canale 57 della RAI ha mandato in onda un bel servizio sull'uomo di Neanderthal, e quindi noi ci chiediamo, come atei, come mai questo presunto Dio avrebbe dovuto creare questi poveri disgraziati dei Neanderthal che vivevano in condizioni di ignoranza, di precarietà incredibili, vivevano 20-30 anni, a che pro crearli per farli soffrire? In realtà la loro esistenza è spiegabile nell'evoluzionismo darwiniano. Invece non è spiegabile nel creazionismo cristiano. I sindacati sciopero, bestemmia, licenziato dal call center di ERA, con la H davanti, Fatto Quotidiano del 3 dicembre 2023. Abbiamo poi dalla Stampa di Torino, tutto libri, con 20, purché tetri e spettrali fanno venire voglia di un bel giallo storico. Marcello Simoni racconta i segreti delle architetture medievali ispiratrici di celebri romanzi d'horror, l'abbazia di Umberto Eco, il fascino sinistro delle scatole chiuse, eccetera. Abbiamo poi Ambiente non solo, dopo il mostruoso pesce prete che esiste veramente nel Mar Adriatico, lì è stato trovato anche il granchio crocifisso. Salutiamo i compagni delle Marche che faranno una cena anticlericale domenica 24 dicembre 2023. Nessuno ha bisogno di Dio per star bene insieme, nemmeno i preti, figuriamoci noi. disgrazie clericali, anche qui questa volta il santo, la Madonna, Dio non è intervenuto, Filippine, attentato durante la messa, 4 morti e 50 feriti. Il libro della settimana, è un libro anni 80, Walter Siri, Senza Dio, senza padroni, edizioni sempre avanti, Livorno, un testo così di propaganda atea antireligiosa d'epoca. Qualche slogan per concludere, ora e sempre resistenza anticlericale, sbattezzati sul sito uar.it. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano, ma quale bellezza del creato? La storia della Terra è un'ininterrotta serie di cataclismi. Ateismo vincerà. Arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Sacra corona, finì la monarchia, finì la monarchia.